S'orgoglioso non fosse esser suo sposo allor non ha potuto che gradito li fu lo puote o madre ora che più superbo egli divenne alla cerimonia tua e ai suoi ritorni figlio vado al soldan i vostri miei contenti ad affrettar avrete in breve quella mercè che al vostro amore si deve